pentirare, perché va bene, va bene. Antonello, sempre San Antonello. Gavri, boh, mi farà da antenna. Ragazzi, io vado a riempire lo stomaco. Aspetta, ti ha chiesto dove hai preso l'Antonello? Bravissimo. C'era solo lui con l'antenna lì, no, l'ha usata praticamente niente. Lo fa nuova, già la conosco. Vabbè, già, capo nuovo, vai da una targa. Ragazzi, io vi devo lasciare. Devo andare a riempire lo stomaco, a riempire la cambusa perché ho i tuoni in pancia. Ed è pronto. Dai, è stato un piacere. Ci sentiamo tutte alle prossime, passatevela bene e non mangiate tanto. Grazie a voi, buona serata. Via, bravi, ciao. Entra più spesso, dai, fammi sapere se c'è qualcuno che vuole qualche cucciolo. Salutami a Giovanni, ciao. Ehi, a Tino, sì, sarà fatto. Grazie, buona serata, ciao Gino. Ciao Gavino, ciao, buona serata. Ciao Gianni, buona serata a te. Ciao Gavino, già ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao, per oggi stavo guardando un'altra cosa e mi hanno mandato un messaggio, non è? Ho guardato quello lì. È molto bella, complimenti, veramente bella. Grazie. Tutto fatto a mano, io pantografo non ne ho, tutto fatto a mano. Ti puoi fare anche le scritte della moto, nei giubbotti e così, con quella grafica lì. Sì, io uso molto i caratteri gotici, che mi piacciono tantissimo. Uso i caratteri gotici e ne sto facendo parecchie con queste cose qua. Ne ho fatto una lunga un metro addirittura, con una scritta grande per un camionista. Oh, fatemi sapere cosa è, dai, ti ho il foglio grande io, nel camper non lo fai. Sì, se vuoi io te la faccio, dai le targhe col nome, illuminate. Ah, ho capito. Io ce l'ho nel camper. Bella. Fammela a me. E cosa ci vuole il plexiglass? Come funziona? Ci vuole il plexiglass, ci vuole la carta, insomma ci vuole un po' di roba, l'alluminio, LED. Ho capito. Vabbè, dai. Guarda la favola, quanto si organizza il tutto? 75 euro ne ho preso. Al di là delle dimensioni, 75 euro al di là delle dimensioni. Bene, va bene, ci vuole lavoro, ci vuole materiale e quant'altro. Tieni presente che solo il foglio di plexiglass lo paghi 60 euro, perché c'è il più piccolo, io prendo e costa 60 euro, che ne escono tre targhe. Poi c'è la carta, io pago 22 euro, poi ci sono i LED, insomma c'è un po' di spesa. Sì, vabbè, comprendo. Belli sembrano fatti, cavolo, non sembrano fatti a mano, sembrano fatti quella cosa, come si chiama. Mandala, perché mi sa che io non c'ho il mio numero di telefono, forse su Messenger mi avevi contattato, però il numero di telefono non ce l'hai. Mandagliela già, fagliela vedere, così mi dice cosa ne pensa. Breakers. Avanti, sì. Buonasera a tutti. Ciao. Mi nomi, buonasera. Gappa. Buonasera. Di cosa si trattano queste cose? Stiamo facendo un po' di... Davvero, che è che spaccende? Lubuscia, che è? A Porto Torres. Sì, a Bulldozzo le affari, e lui se la mette nella pala. E cosa stai facendo? No, faccio le placche illuminate per gli autisti, mi hanno già le viste le placche, quelle che col nome che si illuminano, cambiano colore anche. Ah, tu le stai facendo? Le faccio, sì, ne ho fatto tante per gli autisti. Bravo, vedi. Ciao, ma sei andato a Porto Torres a prendere questo disegno? No, io sto qua. Ma sono andato a Porto Torres, sai che stavo leggendo un messaggio che mi hanno mandato, era un po' lunghetto. E adesso ho risposto e via. Stavo guardando appunto questa storia che mi ha mandato Eugenio, questa placca. E poi ho ricevuto un messaggio, quindi ho dovuto rispondere. Capito, mi hai? Andiamo a Bex, vai, che fa un po' mi alzo la seggiola per andare a riempirmi la pancina. E anche io fra un po' me ne vado via, perché devo mangiare. che mi tocca. Oggi vabbè ci ho mangiato insomma un mattone di pasta al forno, cazzo. Mi ha cribbato. Ma gli hai mandata già? Cosa? Gli hai mandata? E cosa? La foto, l'assino. Ah, pensavo che se si manda l'ultimo, non avevo capito che devo mandare io, aspetta. Se non ce lo devo cellulare, mandagli a tu, aiuto. Ma se te lo detto, ma se te lo detto, boh. Dai che facciamo un giro di spazio qua. E quindi bulldozzo, così si dice. E nulla, mi stavo guardando la Formula 1. Saluto a Gianni, forse non l'ho sentito prima. Stavo guardando la Formula 1, eh. Io invece sono andato al budone, ho bucato i cingoli da un paio di scavatori che c'erano lì. Perché c'è uno che mi è antipatico e quindi non lo faccio lavorare domani. Ah, uscire. Ma secondo te domani lavori? No, io sono già un paio di giorni fermo per la pioggia. Sono passato, infatti non è, vabbè, diciamo che da quella parte lì oggi era bello, però sai, chi più di te non sa se muovere quei mesi fa danno, quindi. No, ma non fa che tutto, nei varchi è tutto aprano, con il camion esci, sporchi la strada e fai un casino nero, capito? Quando piove praticamente non lavorate. Dipende da quello che stai facendo, capito? Noi no, perché ormai siamo già quasi in chiusura della strada, quindi se non che stai facendo cose interne allora è diverso. E perdete giornate così? Massimiliano, non è integrazione. Integrazione, ma io lo so che integrazione, Buse pagata all'80%, però non c'è niente di versato, capito? Meglio di un pugno a faccia, cioè. Poi, guarda, io lo stesso, io vabbè, domani mi ho preso libera io per fare altre cose. Però, visto il tempo, la settimana scorsa ho lavorato 3 giorni, 2 giorni me lo sono stati a casa. E così è, uno piove, è un casotto. Sì, non ti è arrivato niente. No, ancora Gianni sta scrivendo un messaggio, non ancora niente. Sì, già, ma le prese le istruzioni, non voi. Che puppa! Io l'ho mandato, poi non lo so. L'hai mandato? No, non è arrivato niente ancora. Ancora nulla, eppure segnale pieno. Non c'è niente, vabbè, appena lo vedo. Ti farò sapere. Ciao già, ti ho salutato anche prima. Ciao Bulldozer, ben sentito, ero un po' distratto perché stavo facendo lavoro a testa. Ah ok, va bene, il pusher? Quanto ti stanno dando di parcella? Ma qua mambo ce ne sono, qua ci sono tutti i maschioni. Forse mi è arrivato un messaggio, ho sentito la gocciolina, cioè. Oggi poi mandamela una a vedere come le fai, se ti posso dare un voto da 1 a 10. Già te la mando, adesso te la mando, prendo il telefono e te la mando, dai. Complimenti, bella, questa ruota King, bella. Ti piace, sì? Bella, sì. Anche i caratteri che stai utilizzando sono molto belli. Quello che sta a mano, quelli che faccio io a mano, caratteri gotici. Quanti colori la fai, Io di solito uso la mascherina nera con la scritta bianca, che insomma è quella che si vede di più. Però poi i LED, se vuoi, ti metto quelli che cambiano colore. Ma sono quelli che si bruciano prima. Io uso LED buoni, che durano un sacco. Anzi, non si bruciano mai, perché ne ho fatto già una, dove ha già 9 mesi, un parto, e sta sempre andando alla grande. Invece qualcun altro che mi ha detto, ma l'ho aggiustato e li ho messo i LED normali, perché avevo quelli che cambiavano colore e si bruciano praticamente. Quei multicolor, già ho capito, sì, ma tu in genere la fai tipo color ghiaccio, come la fai? Cioè si abbassa l'intensità, dei disegni, cioè a vari tipi di cose. Allora io ti faccio la scritta, disegni no, perché faccio tutto a mano, poi viene male a ritagliarlo col taglierino, insomma c'è tutto un lavoro da fare, quindi disegni complicati non ne posso fare. quelli che vedi che hanno il bel disegno sono quelli che è fatti a pantografo, capito, a macchina, che fa tutto il computer, io ho tutto a mano. Aspetta, la mando. Ehi, a KK, riprende già. Bene, sono fatti veramente bene, c'è una bella grafia, ma fatti bene, per essere fatti a mano sono perfetti. Aspetta, già va bene nella station, te la fai fare blu, attacchi all'alimentatore. Io te l'ho mandato su Messenger, Massimiliano, non so se ti arriva. Aspetta, perché mi sta... il telefono c'è la mia figlia, aspetta. Sì, ragazzi, devo mollare io, che mi chiamano per il rancio, so, poi passo al treno e tocca mangiare i piedi del tavolo. Ci sentiamo le prossimine, ciao Massimiliano, ciao Gianni, ciao Eugenio, dai, e ciao gli eventuali scoltoni, quello che fischietta, no, perché sono maschietto io, quindi non mi piacciono i fischi. Ciao, divertitevela. Ciao, ciao Tino, ci sentiamo, buona carica, grazie per il questo, alla prossima, avanti Massimiliano. Cappa, ciao a te, buona serata, buon tutto, e ce la riascoltiamo alle prossime, vai Eugenio. Ciao Tino, ci sentiamo, ciao, ciao. Ehi, ciao, ciao, Massimiliano, guarda che sto... devo far fuori dei cuccioli, se... fuori, come dire, regalarli. Se senti qualcuno che li vuole nella tua zona, oppure qualcuno che conosci dove lavori. Ehi, che tipo è? Che cani sono? Guarda, sono un pastatesco con un Rottweiler, il maschio è Rottweiler. Ma sono bellissimi, sono belli belli, proprio... però la gente ha paura di prendere cani grandi così. Se sento ti faccio sapere qualcosa, ok? Anda Bex, ciao, divertitevela. Ciao, ciao, ti. Belle, oggi belle. Ascolta, ma l'intensità della luce si può regolare oppure rimane sempre fissa così? No, l'intensità rimane, questa rimane fissa, ma se voi ci sono i LED che hanno il cursore che regola l'intensità, ma l'intensità è cosa di una frutti. E si deve vedere la placca, cioè il nome si vede. E no, in genere le fanno, c'hanno dietro un affarino oppure un telecomandino che puoi abbassare l'intensità, puoi farla camminare, ruotare, diverse illuminazioni, nel senso, come si dice, un po' più bassa di intensità, più voluminosa, capito? No, ma quelli sono i LED, quando compri i LED, hanno lo spinotto, no? con un cursore. Muovi il cursore, ti dà più o meno intensità, capito? Poi magari cambi colore, ma sono quelli B-LED. Cambi colore non è un problema a farli. Io uso questi qua, che si vede bene, si vede molto bene. Durano, quelli doppio colore si bruciano, un sacco stanno lamentando che hanno il telecomandino, cambi colore dal telecomando, cambi intensità, ma si bruciano subito, capito? Sì, comunque sì, è bella, va, mi piace, poi è anche abbastanza grande come tabella, diciamo così, va. Avanti già. Papa, ti è arrivata la città? Sì, l'ho vista adesso, è bella, me lo stavo dicendo Eugenio. Cappa, sì, è ben fatta anche, bisogna dargliene atto che le fa bene. Yeah, quella te la metti nella stazione, te la fai fare tutta blu. No, non la faccio, già va bene così, Massimiliano, pongo anche la roba. Qua ogni piano c'è la sua roba. No, c'ho i LED blu per la notte. C'ho praticamente, l'ho comprata dai cinesi, c'ho tipo un neon rimane con i LED dentro, no? Si attacca sotto, l'ho attaccata sotto, quando illumina c'ha l'interruttore, quando illumina tutta la stazione. Te l'hai presa, sì, ho capito come so, ma blu te l'hai preso oppure che colore l'hai preso? No, blu per il notturno l'ho preso. Già bella, già bella. Allora vabbè, io c'ho una striscia di LED bianca, ma tanto di notte non è stato attaccato alla radio, quindi però è bella quando è così, accendi quella, spegni tutto e ti rimane la stazione illuminata, già bellina. Sì, bella, sì. No, già va bene, a me piace. KK. Mi sto finendo un'altra, la devo consegnare. Anzi, che cosa è diventata più mala di me? L'ho fatta un amico, Catmanini, ma le biglie ha assato tutti i ganti. tutti quelli che hanno il camper adesso che vedi le scritte davanti le ho fatte tutte io. E a ti dice bene che bruci? Eh già, c'è lavoro, non è che le fai in 5 minuti. Sto scherzando oggi, già lo so che c'è lavoro, è che è una passione, magari ti appassiona a farlo e lo fai volentieri, capito? Sì, no, ma dico, è diventata qualcosa di più grande di me, perché adesso una l'ho finita, questa roba qui l'ho finita, devo consegnare. Adesso ne sto iniziando una. Un'altra, Luca, con dei cosi, vuole dei cosi particolari e sto cercando di farglieli. Insomma, è diventato qualcosa di, ti ripeto, più grande di me. Gli autisti mi stanno assillando, ne devo fare una con i nomi della moglie e della figlia, lunga un metro. Un'altra l'ho consegnata da poco, lunga un metro, un autista. Qua, veramente... un trago secondo lavoro sta diventando, dai. Questa camera sta diventando questa roba di fogli, di cose di catadesivo, un casino. Ma tu sai cosa devi fare, se c'è il giro, che c'è il tanto, ti prendi la macchina che ti taglia già tutte le lettere, capito? Come vuoi tu, e così non fai più che sassillo e farle a mano, e io a mano non esci più. No, ma mi piace farle a mano, mi piace. Un attimino mi è arrivato un messaggio da lavoro, Belle sono belle, però c'è un bel impegno, capito? Un bel impegno, da du. Sappenta. Già le fa bene, sì. Io l'ho vista, è molto bella, molto bella. A me, vabbè, non interessa, perché quelli si mettono nel camion, anche nella ruspa lo puoi mettere, però a metterlo dentro casa no. Sì, dovrebbe essere una targhettina piccolina con la scritta doppio room, capito? CB doppio room è messa quando apri il mobile che si veda, ha scomparsa. E non siamo nel voto nel cavallone, a vedere la gara, beta. No, vanno bene per gli autisti che vanno magari in giro, capito? Però li biasi che gossi. Perché gli autisti si girano il camion, non lo vedono come un'abitazione, capito? Come una seconda abitazione. Il periodo di Natale, certo, si mettono gli alberilli, tutte le luci che si accendono e si spengono, la usano come se fosse una casa, capito? Io ce l'ho nel mio camper che cambia colore, però sono bruciati i LED, allora l'ho riaperto e mi sono messo i LED normali. Quelli cambiano colore e non durano un cazzo, non durano niente. Sono fatti in modo che si bruciano in prima, boh. Però già li ho visti in periodo di Natale, vedi certi camion che ci sono tutti girillati, con le luci che si accendono e si spengono, cavolo, gli alberi di Natale. Vabbè, i LED se prende quelli buoni, quelli multicolor, se prende quelli buoni già non si bruciano, è che costano, maledizione. Una striscia di 3 metri io la pago 20 euro, io prendo quelli buoni, non la prendo dai cinesi, prendo quelli buoni, insomma, li prendo da Mameli, li prendo. Io ne ho preso due rotoli dai cinesi, di quelli lì, che hanno praticamente contatti che si praticamente tu tagli dove devi la misura e poi lo metti dal contatto e funziona, capito? E si interrompe da dove la tagli, si interrompe e si accende. E ho fatto diversi lavori, anche su smitter, degli apparati, l'apparato che ho venduto da poco su Inter, che con la stazione base si l'avevo messo blu, erano molto belle. Sono tutti così, interrompere, no? Sono una striscia di 3 metri, che cosa devi fare? Sono tutti così. Va bene signori, dai, io vi saluto che vado a sgranocchiare. Ciao a tutti. È piacere avervi sentito. Ciao Luigi, ci sentiamo, dai, buona serata, chiudo anche io, dai, ciao bulldozer, ci sentiamo, mi dispiace ma devo andare a mangiare, dai, ci sentiamo, grazie di tutto per il consiglio, saluto anche gli eventuali ascoltoni, quello ti per me, dai, sto chiudendo, ciao. Ok, vi saluto tutti e due, ciao Gianni e ciao Eugenio. Ci sentiamo le prossime, buona carica e buon tutto, ciao. Ciao, ci sentiamo, ciao.